Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati all'ascolto di questa puntata Dal mondo della scuola, nella quale ritroviamo un'associazione che partecipa molto al percorso di questa rubrica, che è l'AGE, Associazione Genitori, nello specifico di Noale. Bentornato a Giancarlo Cusin. Buonasera. Grazie per la disponibilità. Ha portato un ospite che ci accompagnerà per due puntate, questa e poi non la prossima settimana ma fra due settimane. Vuoi presentarcela? È la dottoressa Clementina Tassone, che è responsabile, diciamo così, esperta in educazione familiare dell'AGE regionale del Veneto. Benvenuto, bentornata, perché so che è stata a questi microfoni a suo tempo. Grazie. Di cosa parliamo allora? A voi. Allora, volevo fare un breve riassunto delle precedenti puntate. Certo. Noi ci siamo visti ultimamente a novembre e gli anni scorsi parlando del tema dell'educazione dei ragazzi. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo affrontato l'educazione all'interno del nucleo familiare, dei rapporti tra famiglia e scuola, tra famiglia e territorio. Tra i temi affrontati abbiamo discusso di organi collegiali, di orientamento scolastico, di inserimento di alunni disabili e stranieri, dell'enorme importanza dei mezzi informatici, di fenomeni deleteri nell'ambito giovanile, bullismo, droga, violenza, autolesionismo, gioco d'azzardo, persino, l'ultima volta, di scuola ed educazione nell'ambito sanitario. Stasera proponiamo un tema apparentemente estraneo al mondo scolastico, ma drammaticamente presente a livello sociale: la crisi economica che colpisce le famiglie e le rende estremamente vulnerabili nelle proprie scelte educative. Troppi stanno pagando uno stile di vita dissennato e dissipatore di risorse, comprese quelle indispensabili alla educazione integrale dei figli. Occorre impostare il proprio menù familiare alla sobrietà, alla solidarietà, al senso di sacrificio e di rinuncia, e cercare soluzioni realistiche per concorrere al bene comune. Io mi rivolgo adesso alla dottoressa Tassone per chiedere di quale progetto lei parla sulla base della scuola genitori. Sì, mi ricollego a quello che dice Giancarlo. L'associazione aveva già fatto un intervento, la relazione fra famiglia e scuola. Ecco, e quello di cui parliamo oggi è proprio riguarda la relazione invece fra le famiglie e la nostra associazione. Negli ultimi tempi la proposta che appunto di cui oggi voglio parlare nasce proprio dalla mia esperienza personale come conduttrice di scuole genitori AGE e come socia molto attiva nell'associazione AGE da più di 13 anni. Facciamo un passo indietro per chi non è del settore dell'associazione. Già, cosa sono le scuole genitori? Allora, le scuole genitori rappresenta un metodo particolare che è stato richiesto da noi genitori dell'AGE, perché avevamo questi gruppi di genitori e non sapevamo come far sì che facessero un lavoro fecondo su se stessi per i loro figli. E quindi anni e anni fa, nel 20 anni fa circa, forse anche più, alcuni genitori hanno cominciato a dire: cerchiamo di strutturare un metodo di lavoro per far sì che noi possiamo riflettere insieme e occuparci anche di situazioni concrete che riguardino la vita della famiglia, la vita quotidiana e la vita della scuola. E così è nato questo metodo, che è rimasto, direi, fedele alla sua struttura originaria. Non è rimasto fedele così, è rimasto fedele perché molti di noi hanno tenuto affinché rimanesse fedele. Quindi la sua fedeltà consiste nel fare un lavoro molto condiviso, molto interattivo, e io appunto dopo lo pubblicizzerò molto e voglio dire dove li facciamo, perché bisogna che veniate almeno una volta, così così avete modo veramente di capire cosa voglio dire. È un lavoro interattivo, nato proprio dalla necessità stessa dei soci di formarsi, di informarsi, di responsabilizzarsi come genitori di ogni età per affrontare le necessità educative che ogni contesto attuale porta. Quindi tante volte una scuola genitori, spesso noi educatori, noi conduttori di scuola genitori veniamo chiamati e abbiamo bisogno di sapere che tipo di necessità c'è per fare il nostro intervento. Perché ogni interlocutore contesto, davanti è diverso, esatto, chiaramente, esatto. Perché una cosa quindi che va bene a Padova non va bene a Noale o da, certo, altre parti. Certo, ma soprattutto la scuola genitori AGE non è un corso. Mira a far sì che in quel che i genitori stessi cercano di tirar fuori le loro risorse, quindi non è un corso. Io sono psicologa, ma non vado lì e faccio il mio corso così sono a posto. No, voglio che ci sia poi una continuità. Allora è su questo che stiamo lavorando da molti anni, perché poi questa cosa, questo lavoro che facciamo maturi e si radichi, e adesso stiamo cominciando a vedere che i semi seminati che abbiamo a seminato suo a suo tempo in ogni realtà stanno cominciando a dare i loro frutti adesso. È di questo che vorrei adesso parlare. Allora lo faremo subito dopo la prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Disteso sulla terra umida, mi perdo tra le nuvole, sento la pioggia sulla pelle pungere, il volo degli uccelli è un brivido che mi accarezza l'anima, nel cielo che diventa limpido più in là. Le ali mi portano via, via lontano da qui, dove tutto è un po' più blu, dolcemente lassù, dove il mondo non c'è. Pesa inutile, un'inutile bugia. Chiudere gli occhi e poi via, via lontano da qui, dove tutto è un po' più blu, dolcemente lassù, dove oltre tutti Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme a due esponenti dell'Associazione Genitori, uno è Giancarlo Cusin che è referente per Noale e Clementina Tassone che è esperta di educazione in ambito familiare, proprio nell'ambito dell'AGE a livello più ampio, no? Stavamo presentando questi percorsi, questa scuola genitori, che non è un corso ma è un percorso, no? Potremmo dire, Clementina, con quali argomenti, così entriamo un po' nel concreto, dicevamo un percorso che aiuta i genitori a crescere sotto vari aspetti, toccando vari argomenti, però esemplificando forse sì, capiamo i temi meglio. Fondamentali di tutto il percorso sono dei concetti base: responsabilità, autonomia, libertà, incoraggiamento educativo, cos'è la relazione, cos'è una buona comunicazione. Questi sono gli argomenti base. Adesso non so se volete ve li dico proprio come viene strutturato il percorso classico, diciamo. Ecco. Beh, diciamo che fanno un po' da riferimento. Esatto, questi fanno un po' da riferimento, mm-hmm. Sono proprio i fari. Poi il sottotitolo può... Ecco, questo è il nostro... quindi abbiamo il percorso classico che è quello tradizionale, ecco. Però all'interno di questo percorso la scuola genitori viene collaudata a seconda delle esigenze del territorio. Ecco, questa è la cosa importante con cui noi come associazione lavoriamo, perché ci sembra importante, ecco perché dicevo prima che ogni conduttore, quando gli viene richiesto una scuola genitori, va e conosce il contesto, perché altrimenti diventa il solito corso che uno va e fa il corso e dopo ha finito. Invece no, perché il nostro scopo è quello di creare delle situazioni, dei riferimenti culturali come AGE, per far sì che i genitori veramente si riferiscano di nuovo alla loro autoeducazione, alla loro autoformazione, quindi diventa una ricchezza in quel territorio. Forse è superfluo domandare o impreciso domandare quanto dura, nel senso che sembra che non finisca mai. Bravissimo, oh, mi fa piacere, questo mi fa piacere, sì, infatti non dovrebbe finire mai, è proprio questo il senso, no? Noi vorremmo sempre dare proprio questo senso di continuità. Beh, se devo dire i tempi, annuale abbiamo fatto in genere scuole genitori di primo e di secondo livello. Ognuna dura 6 incontri, quindi sono 12 incontri nell'arco di 2 anni, in genere ne facciamo una all'anno, in maniera che i genitori che vi partecipano imparino a collaborare e a dialogare tra di loro, perché alla fin fine poi, se all'inizio sono restii a parlare di se stessi, dei loro problemi, alla fine si aprono, si rendono conto che le difficoltà molto spesso sono comuni e che quindi nel dialogo si riesce a trovare anche la soluzione di problemi che altrimenti sembrerebbero anche difficili da risolvere. E vi chiedo, visto che è da 15 anni, 20, insomma, che fate questa esperienza, lo chiedo ad entrambi, sono più predisposte le mamme o i papà? Oppure a rovescio, chi è che è più duro? Devo dire purtroppo che la partecipazione è al 70% femminile. In genere i genitori maschi partecipano in sostituzione qualche volta delle rispettive mogli, se queste non sono in grado di partecipare, e quindi partecipano anche coppie molto spesso, più di una. Nella scuola genitori che stiamo affrontando non sono molti, sono una quindicina, di cui la maggioranza sono mamme, e c'è anche una coppia, va bene, che vi partecipa. Quindi la realtà varia secondo gli anni, ci sono anni in cui c'è abbondanza di partecipazione, ci sono anni in cui i genitori sembrano assenti. Lei conferma questo spostamento sulle quote rosa? No, perché Giancarlo parla della realtà di Noale. Mm. Appunto, chiediamo un invece un in una realtà diverso. Più ampia. Mm. È abbastanza vario come situazione. Poi, appunto, noi lasciamo veramente liberi i genitori di partecipare, non necessariamente in coppia, non necessariamente per forza, insomma, lasciamo un po' questa libertà, proprio perché vogliamo che gli piaccia il metodo di lavoro. Il metodo loro se lo ricordano negli anni a venire. E abbiamo un po' questa, più che il corso, stiamo cercando di diffondere il metodo, perché abbiamo visto nel corso degli anni che è questa la cosa che gli è rimasta di più. E quindi loro, anche se vengono solo le mamme, veramente sono molto collegati con, e a volte ci è capitato non in Veneto, in Lombardia, in un corso genitori, è stato bellissimo, sono venute le mamme, solo mamme, dopodiché si è fatto un altro livello e sono venuti tutti i papà i rispettivi mariti, esatto. Perché hanno sentito, no? Riescono molto a stabilire un contatto, perché diamo esercitazioni, riusciamo a creare un clima molto importante, in cui i genitori si sentono liberi, appunto, non è un percorso, non è una psicologa che parla, è un qualcosa che va proprio a ricostruire un humus umano, di collaborazione fra adulti, di cercare di comprendere bene cos'è veramente una relazione buona. Ecco, questo è un po' quello che, questo è il senso della formazione vera, dell'autoeducazione. Continuiamo a parlarne subito dopo l'ultima pausa. Dal mondo della scuola. Saturday in 1999, right across from where I'm standing on that dance. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, insieme all'Associazione Genitori, Giancarlo Cusinca di Noale e l'esperta di educazione Clementina Tassone. Ci stava parlando prima con passione, perché si sente che ci crede in questo percorso educativo della scuola genitori, del fatto che ai genitori che hanno partecipato nel corso degli anni rimane in mente il metodo, perché sì, il metodo entra proprio più certamente insieme ai contenuti, ovviamente, e allora mi incuriosiva capire in che cosa consiste, con l'esperienza di entrambi, insomma. La Giancarlo, prima cosa che salta subito all'occhio è la, diciamo, la struttura degli incontri, non cattedra e banchi, ma circolo. Quindi la struttura fisica proprio. Sì, è molto importante, perché così il genitore che viene non si sente uno scolaretto che deve venire a imparare, sì, ma deve un po' alla volta liberare le sue energie, dichiarare le sue esperienze, fare i confronti con quelle degli altri e alla fine arrivare a una conclusione che è possibile diventare genitori efficaci. Non genitori perfetti, perché nessuno lo sarà mai, ma genitori efficaci sì. Allora mi è piaciuto Giancarlo che ha detto prima di tutto proprio ci si sente a proprio agio, perché si è in circolo. Si è in circolo, dopo un attimo già la conduttrice ti mette a proprio agio, perché la conduttrice è a proprio agio, nel senso che non ha velleità di dover condurre chissà come una cosa, come psicologa, come educatrice, no, ma come genitore, un altro genitore. Alla pari, ha sperimentato a sua volta il metodo e quindi è veramente, gli ha dato delle cose per i suoi figli, per la società, e quindi è molto tranquilla di trasmetterlo. Questo dà un clima immediatamente, come dire, di conversazione fra amici, per cui ci si rilassa, e questo è un qualcosa che fa sentire più liberi. Allora a quel punto anche capire delle cose, qualcuno che porta un esempio, e capire cosa vuol dire la responsabilità in quell'esempio, diventa facile. Diventa più tranquillo, diventa più. E allora a quel punto moltissime volte ci sentiamo dire non l'avevo capito, cavoli, con tutti i corsi psicologici che sono stata, ti giuro non l'avevo capito così. E dico sì, certo, perché qui riprendiamo le nostre risorse umane. Se tu non devi parlare in un gruppo per aver ragione, per sapere se l'esperto mi dice cosa devo fare, ti rilassi e dici cavoli, questa cosa la potrei capire anch'io, oppure gli dico questa cosa a lui che è un po' come parlare più tranquillamente. Tra genitori si parla, si condividono tra adulti, anche le esperienze. E quindi dire, cavoli, aspetta che cerco di capire cosa sta dicendo l'altro. Certo, abbiamo appunto proprio, come dire, il conduttore cerca di proprio avere un po' di tecniche per far sì che questo rispetto, no, si affermi un po', no? Proprio rispettare l'altro cosa può dirci, no? Ecco, questo sì, a volte magari una persona si perde in una conversazione. Sì, che non sia uno che prevarichi nella. Sì, oppure in una conversazione politica o in una conversazione sui massimi sistemi o sì, fa un discorso. Il divagare tipico, esatto, non solo di questi contesti. E lì, ecco, allora lì la scuola genitori su questo ha veramente delle tecniche insuperabili, perché fa stare nel concreto. Ah. E lo vediamo continuamente quanto questo dà. Questa sensazione di sentirsi molto concreti e quindi molto utili. In queste settimane, in questo periodo, comunque in quest'anno di riferimento, in Veneto dove ce ne sono di attive? Allora, ce ne sono di attive in Noale in questo momento, ne partirà una a Sant'Elena d'Este, e a Pozzo Novo partirà un'esperienza tipo scuola genitori, perché abbiamo appunto stiamo sperimentando finalmente dopo tantissimo tempo a cui cerchiamo questi semi di tutti i corsi che vadano in un unico vaso, e allora finalmente da un anno stiamo sperimentando dei gruppi multifamiliari, cioè di più famiglie di genitori age sparsi per il Veneto, che hanno fatto scuole genitori e che riusciamo appunto a tenere dei gruppi una volta al mese che riprendono i temi della scuola genitori, appunto, e da lì è nato proprio il discorso sull'economia, che vi dirò nella prossima puntata. Sì, abbiamo ancora qualcosa? Un riferimento, magari un recapito telefonico, un sito internet, Giancarlo, a cui fare riferimento? Il vostro? Il sito internet è quello dell'IRSEF, la nostra scuola di formazione, che ci dà le informazioni sulle varie scuole genitori, anche tutto il percorso, chi vuole diventare conduttore di scuole genitori, ecco, è www.irsef-italia.it. Ripeti. www.irsef-italia. Imola, Roma, Sondrio, Empoli, Firenze. Trattino in mezzo, trattino alto italia.it. E poi c'è il sito dell'AGE. C'è il sito dell'AGE, www.age.it. Poi i nostri riferimenti, do il mio recapito telefonico, che sono appunto la referente un po' di tutte le scuole genitori di questa zona, ecco. 049, mi potete telefonare per qualsiasi... 049-812-275. 049-812-275. Ecco. Potete lasciare un vostro messaggio, vi risponderà Casa Tassone, potete lasciarmi un vostro messaggio e sarete richiamati. Per chiedere informazioni. Per chiedere qualsiasi cosa. Ebbene, allora, noi vi ringraziamo per questo primo step di introduzione in questo però mondo. È il secondo step più interessante, il secondo step, allora, fra due settimane voi tornerete nostri ospiti. Intanto grazie per essere stati con noi, Giancarlo Cusini e Clementina Tassone. Grazie. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.